Il gastronauta di Davide Paolini. Sine qua non, cari gastronauti e cari radioascoltatori. Bene, oggi parliamo di un argomento che penso interessi tutti, perché chi lo prende freddo, chi lo prende caldo, chi lo prende shakerato, chi lo prende nel gelato, chi nella granita, chi nella gazzosa, chi nell'affogato. Insomma, il caffè è nella vita di ognuno di noi tutta la giornata, dalla mattina quando ci alziamo fino alla sera. E quindi parleremo di questo argomento e vorremmo scoprire si beve un buon caffè in Italia, oppure si beve un buon caffè shakerato, si beve un buon caffè freddo. Ecco, questo sarà il punto. Devo dire che io premetto subito che il caffè caldo che si beve in Italia mediamente non è granché. Qui mi fermo e magari poi ne parleremo durante la trasmissione. Voi che ne pensate? Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo questo giro da un responsabile di un bar importante a Sarmeola, in provincia di Padova, da Luca Contiero. Buongiorno Luca. Buongiorno Paolini. Allora Luca, in questo periodo, ecco, cominciamo subito a fare un test. Si beve più caldo, freddo o shakerato il caffè? Beh, guardi, in questo periodo si beve sia shakerato sia caldo il caffè. Diciamo, gli amanti del caffè shakerato sono molti, soprattutto caldo, ma in questo periodo anche freddo. Quindi diciamo che l'estate, appena arriva il caldo, succede questo. Ecco, senta, ma sono esigenti i clienti che chiedono lo shakerato? Vogliono così una come posso dire, una ricetta precisa? Vogliono il mixer? Vogliono lo shaker? Cosa vogliono? Cioè, oppure chiedono un caffè freddo o shakerato? Ma guardi, ci chiedono un caffè freddo shakerato, però la maggior parte lo chiede shakerato, poco zuccherato, in maniera tale da sentire il sapore deciso del caffè e che abbia una bella spuma, insomma. Senta, nel suo bar il caffè freddo, ecco, per qui cominciamo a vedere le grandi differenze anche tra Italia del Nord e Italia del Sud. È nel bottiglione sotto il residuo di tanti caffè non bevuti, oppure viene fatto al momento? No, assolutamente, noi facciamo solo caffè shakerato. Il caffè freddo purtroppo per fortuna, insomma, non lo facciamo, perché non è nella nostra filosofia, insomma. Preferiamo shakerare un buon caffè caldo con abbondante ghiaccio e pochissimo zucchero, in maniera tale che venga fuori un bel caffè shakerato con una bella spuma e abbastanza deciso, insomma. Ecco, ora sentiamo un radioascoltatore, Lino da Genova, che ha già chiamato. Buongiorno Lino. Buongiorno, un'informazione di servizio, diciamo. Volevo sapere se corrisponde a verità che il caffè di montagna, come dice la pubblicità, è di qualità migliore, e se la tostatura lenta influisce anche questa positivamente sulla qualità del caffè. Grazie. Quindi lei, cioè, la domanda è sulla tostatura. Ora poi avremo dei grandi esperti e lo chiederemo a loro, sicuramente ci daranno una risposta, ma sono già arrivate moltissime SMS. Ritengo anche, vede, un altro radioascoltatore, ritengo che anche l'acqua contribuisca ad ottenere un buon caffè. Cosa ne pensate? Sì, anch'io sono d'accordo, ma poi vedremo. Un altro, molto spesso si sente parlare della pericolosità tumorale del caffè. Vorrei sapere se ci sono studi in merito e risultati eventuali. Grazie Francesco da Novara. Ecco, io quando ci sono, diciamo, questi SMS molto, molto importanti, che, diciamo, dare una risposta può essere davvero pericoloso nell'uno o nell'altro senso, io chiedo sempre se c'è qualche medico, qualche esperto in ascolto. Se vuole intervenire, ben volentieri, perché meglio di un medico non può rispondere a questa domanda, e non sono certo io la persona giusta. Bene, continuiamo, ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Io faccio una domanda ai radioascoltatori che chiameranno: ma il caffè freddo che chiedete viene tirato fuori dal bottiglione in frigorifero o vi viene fatto al momento? Bene, detto questo, andiamo a Milano in un bar Callegaro, e sentiamo il barman che prepara, ho visto molto spesso, dei caffè shakerati. A lui chiedo: qual è la ricetta del suo caffè shakerato? Gianfranco Alessi, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, eccomi qua. Intanto volevo contraddirlo un attimino su quello che ho detto all'inizio, che diciamo che il caffè in Italia non è tra virgolette sicuramente non è dei migliori, non è vero assolutamente quello ho detto mediamente. Comunque la passione con la quale ci impegniamo quotidianamente per promuovere la cultura del caffè trae origine dalle nostre visioni di lavoro, affermando quello che è il lavoro di una ricerca del nostro prodotto stesso. Comunque mi creda, questo, siccome viaggio molto spesso, questo ideale consente di legittimare il caffè come scelta di gusto e non come semplice consuetudine, perciò volevo puntualizzarlo. Comunque guardi, siccome giro molto e sono, prendo parecchi caffè al giorno, le posso dire che mediamente in Italia si beve un mediocre caffè. Certo. Fatto male. Comunque, molti vabbè, baristi noi, molti noi abbiamo, ma, mi lasci finire, sì. Molti baristi assolutamente fanno il caffè così con nonchalance, non lo curano per niente, la tazzina gronda dalle parti di quei chicchi, di quei frammenti che sicuramente indicano una macchina non tenuta perfettamente, e ci sono dei caffè veramente certo. Cattivi. Noi ovviamente abbiamo una clientela molto attenta, perciò è molto esigente, infatti non faccio caso, non posso fare casi particolari ovviamente. No, sì, consentiamo. Prego. Ecco, no, diciamo che comunque noi, il nostro prodotto è un prodotto che comunque noi proponiamo al pubblico, vuole essere un prodotto unico. Siamo molto forti in quello che è una nostra caffetteria, perché comunque abbiamo un caffè molto buono e di conseguenza in questo periodo possiamo proporlo in varie maniere. È ovvio che comunque adesso col caldo quello che va di più alla lunga è il caffè shakerato. Ecco, mixer o shaker? Questo è il punto. Il caffè shakerato come viene proposto? Innanzitutto ci sono anche delle attrezzature che ti consentono di montare quello che è un caffè shakerato fatto in modo a regola d'arte, perciò con una sua cremina ben strutturata, al quale il cliente piace molto. È ovvio che ci sono anche clienti che comunque preferiscono un caffè freddo, messo con del ghiaccio direttamente nella tazzina per raffreddarlo, però ovviamente non ha lo stesso gusto che può avere un caffè shakerato montato e creato con una cremina fatta proprio veramente ad hoc. Bene, grazie a Gianfranco Alessi e a Luca Contiero, grazie a tutte e due. Ora abbiamo con noi un grande ricercatore di caffè e di miscele in giro per il mondo, è Attilio Bottala. Buongiorno Attilio. Buongiorno a te e ai tuoi radioascoltatori. Senti, ti faccio subito, non so se hai ascoltato la prima domanda di un radioascoltatore che parlava di cotture molto lente e diceva se queste influiscono sulla qualità del caffè. Esatto, nel senso che la tostatura è uno dei momenti critici per la preparazione di un buon caffè o soprattutto di un buon espresso, e quindi il ruolo che svolge il torrefattore è essenziale, perché soprattutto in un particolare momento della tostatura si sviluppano quelle che sono le frazioni aromatiche importantissime per la nostra tazzina, per il nostro espresso. Quindi sicuramente incide, ecco, l'acqua, si parla sempre di incidenza dell'acqua, è vero o non è vero? Per me l'acqua è un problema soprattutto operando in regioni diverse, perché si affrontano situazioni completamente diverse, con equilibri chimici completamente diversi, e man mano che aumenta anche l'utilizzo di sistemi di trattamento dell'acqua all'interno delle strutture nuove, i problemi per la realizzazione di un buon espresso diventano sempre più complessi, perché si corre il rischio di togliere troppi sali minerali, di alleggerire troppo l'acqua e quindi renderla di difficile utilizzo per la preparazione di un espresso. Bene, devo dire, magari tu mi contraddirai anche diversi radioascoltatori che hanno mandato degli sms sul fatto di un caffè mediamente scadente in questo paese, quindi devo dire che qualcuno parla di ciofeche, come direbbe Totò, ma poi dopo ci torniamo su questo. Volevo dire anche un sms molto divertente che mi dice: mi avete indotto a fermarmi a prendere un caffè. E poi aggiunge: è vero che caffeina chiama nicotina? Beh, io direi di no, perché io non fumo e sicuramente prendo un caffè non mi tocca. Ma io voglio chiederti, al di là il giudizio, che è molto soggettivo, di quello di un buon caffè o di un medio caffè o di un mediocre caffè. Quindi il mio è un giudizio soggettivo, non vuole assolutamente avere il senso dell'oggettività. Per cui, per carità, non entro su questa grande polemica. Allora che vedo che arriva un radioascoltatore, Matteo da Ferrara, mi sembra che abbia proprio una domanda ad hoc. Prego, Matteo. Siccome ho viaggiato molto anch'io, soprattutto in paesi dove anche il caffè è una cultura come qua in Italia, e non mi pare di aver bevuto un caffè migliore di quello che si beve qua in Italia, volevo chiedere dov'è che lei ha gustato un caffè superiore a quello che si sente qua in Italia. Ma io dico semplicemente che mediamente si beve un mediocre caffè da bar a bar, si fanno delle differenze enormi. Bevo un caffè ottimo in un bar e poi ne sento altri 5 e sento delle differenze enormi con un caffè veramente che non vi voglia più di tornare in quel bar. Credo che all'estero, siccome non c'è la cultura del caffè o la presunzione della cultura del caffè, ci siano dei bar e dei baristi che sono molto più impegnati a fare questo e ci mettono tutta la loro buona volontà, non tirano la macchina così tanto per tirare e mettono così, spingono il caffè, la polvere di caffè in maniera completamente errata, come vedo in molti bar. E come dicevo, anche l'uso delle macchine, ci deve essere una manutenzione, cosa che non vedo in questo paese spesso. Quindi è evidente, ci sono dei bar straordinari, però mediamente non trovo questa straordinarietà. Sicuramente Attilio Bottala non mi dà ragione. Prego. Io ti dico che ci sono dei locali dove si possono avere delle esperienze uniche, perché comunque c'è una cultura, una preparazione, un amore verso l'espresso che in parte sono d'accordo con te, non è così diffuso come dovrebbe essere, perché il caffè è italiano e come tale dovremmo averlo nel sangue, soprattutto l'espresso e la cura nella sua preparazione. E io mi chiedo come mai tutti gli anni ai campionati mondiali di cappuccino, di caffè, non vinca mai un italiano, vinca quasi sempre uno straniero. Quindi mi chiedo anche questo, vuol dire che c'è maggiore attenzione, cioè si non si fa il caffè per spirito santo, per essere imparati, ma sicuramente bisogna imparare a fare il caffè. Ci sono molti baristi che non sono capaci di fare il caffè, magari pure in presenza di un'ottima miscela. Corrado Senza, buongiorno, andiamo al Caffè Sicilia di Noto. Non ti voglio impelagare in questa discussione, ma voglio... No, ma è una discussione molto interessante la vostra, Davide. Io faccio solo una breve notazione. Vediamo, analizziamo il profilo sociale del professionista del bar italiano, così, mediamente. Molto spesso troviamo delle persone che hanno un'ultima chance da giocare e aprono un bar. Non ci vuole nessun titolo, nessuna qualifica professionale, nessuna abilitazione a questa professione, figurarsi alla gestione di una macchina del caffè e a un pacchetto macina caffè, macchina del caffè, miscela del caffè. Ecco, Corrado, rimani con noi perché sentiamo un tuo conterraneo, Nino dalla provincia di Catania. Buongiorno Nino. Buongiorno. Io sono di Catania, però in questo momento sono sul traghetto da Villa San Giovanni a Messina. Sta bevendo un buon caffè? No, veramente, credo che molti abbiano ragione, il caffè non tutti lo sanno fare. Nei paesi si faceva meglio una volta, in città qualcuno lo sa fare, ma la maggior parte sono un po' degli imbroglioni. Sono tutti baristi improvvisati. Il caffè generalmente è scadente di qualità. E noi a Catania abbiamo 2 o 3 bar famosi che fanno un grandissimo caffè. Ma lei beve caffè freddo anche? Anche, soprattutto il caffè freddo. E pochi lo sanno fare, quello messo nella bottiglia, senza che sia allungato con l'acqua. Se ne trova poco, generalmente è molto allungato, troppo zuccherato. E devo dire che molti caffè purtroppo non lo sanno fare, perché... Il trucco spiegato a qualcuno del profondo nord, che è quello che la schiuma deve trattenere a galla lo zucchero per almeno 4-5 secondi per avere un ottimo caffè dalla macchinetta espresso. Bene Nino, grazie di queste considerazioni. Io torno a Corrado Senza perché lo avevo chiamato per un fatto abbastanza importante. D'estate si mangia molto gelato al caffè, si mangiano molte granite al caffè. Allora ti chiedo, Corrado, ha importanza la qualità del caffè in queste preparazioni? Ha molta importanza. Davide, come tu stesso mi insegni, in qualunque preparazione alimentare la qualità della materia prima da cui scaturisce il risultato è fondamentale. Quindi è fondamentale sia la scelta della miscela per la preparazione del caffè espresso da cui poi realizzare il gelato o la granita, sia anche la scelta dell'operatore di quanto caffè espresso adoperare nella propria ricetta. Per noi, tu lo sai benissimo, in Sicilia la granitura di caffè è un must a colazione, soprattutto per la variegatura, per la macchiatura della nostra granita di mandorle di Noto. Una nota eccessivamente forte, acida di caffè rovinerebbe il binomio con la dolcezza e l'armonia della granita di mandorla, una nota troppo floscia di caffè, troppo allungato, come diceva l'ascoltatore di prima, rovinerebbe alla stessa maniera. Noi partiamo da una selezione di miscela di caffè, realizziamo un caffè espresso appositamente per la granita di caffè, che poi diluiamo con ghiaccio per bloccare immediatamente la temperatura del caffè appena espresso e poi lo lasciamo maturare e stagionare una notte per poi trasformarlo in granita. È la nostra ricetta blindata per avere un'ottima granita di caffè. Bene, grazie Corrado Assenza. Il suo caffè Sicilia a Noto, credo che valga la pena, una grande granita. Maurizio D'Ancona, buongiorno Maurizio. Buongiorno, in realtà io vivo a Torino ma sono di Bari e per caso sono ad Ancona. Un altro sistema per gustare il caffè come si usa nella mia città di nascita che è Bari, nel dopopranzo il caffè al ghiaccio, una preparazione semplicissima, i bar tengono il ghiaccio a scaglie o a pezzettoni, il caffè viene servito caldo nella tazzina, contemporaneamente in un bicchiere si mette il ghiaccio, si zucchera il caffè, lo si butta sul ghiaccio e lo si beve. È un modo molto diverso di gustare il caffè, si separano i sapori e se la miscela è buona e che, come si diceva prima, se il caffè è fatto bene, lei ha la possibilità di gustare qualcosa di completamente diverso, un profumo completamente diverso. Grazie della ricetta Maurizio. Io torno a Attilio Bottara della Giordano e volevo chiederti Attilio questo. Nel caffè sciacquerato, nel caffè freddo, c'è bisogno di miscele diverse? C'è bisogno di una miscela particolare oppure vanno bene tutte? Ma io sono, come tu ben sai, un cultore di quelle che sono le origini di caffè, perché ritengo che abbiano un carattere e abbiano molto di più da dire che una miscela, abbiano una personalità che noi non riusciamo a trovare in una miscela. E anche nei caffè freddi svolgono un ruolo che è importantissimo, perché riescono a dare questo carattere, questa intensità, questa personalità alla preparazione che diversamente con l'uso di una miscela non riusciremo a avere. Ma giusto per aggiungere una cosa rispetto agli interventi precedenti, io ho sentito parlare di caffè freddi troppo zuccherati o addirittura al contrario che devono essere senza l'aggiunta di zucchero o comunque con poco zucchero. Io ritengo che il ruolo dello zucchero sia importantissimo, perché insieme magari a un briciolo di alcol, magari vanigliato, permette alla bevanda di catturare quelle che sono le frazioni aromatiche e quindi di mantenerle in una preparazione fredda. Questo fa parte della tecnica nella preparazione del caffè freddo che secondo me i baristi devono conoscere per riuscire a preparare un ottimo caffè freddo, un ottimo caffè shakerato. Cesare da Catanzaro, buongiorno Cesare. Buongiorno dottor Paolini, complimenti per gli approfondimenti. Grazie. Settimanali. Senta, io posso dire che il caffè in Calabria è entrato a pieno titolo nella dieta mediterranea, infatti i calabresi lo utilizzano in tutto l'arco della giornata, una chicca, la ricotta fresca con lo zucchero e il caffè è un dolce buonissimo immediatamente da preparare. E poi Mi ricorda la mia infanzia, perché mio nonno mangiava sempre così la ricotta e non era calabrese. Poi anche nelle bevande in Calabria esiste una tradizione importantissima. Allora la interrompo perché abbiamo con noi un produttore della brasilera, Raffaele Spadafora. Buongiorno Spadafora. Buongiorno dottor Paolini, io non sono il produttore della brasilena, sono il produttore di un altro marchio. Ah beh, che è la romantica, quindi però il contenuto è quello, gazzoso e caffè. Cesare, sì. Cesare da Catanzaro, è vero? Gazzoso e caffè? Sì, il caffè come materia prima per la produzione proprio delle bibite, chiaramente zuccherato con zucchero, senza dolcificanti vari, perché il caffè va bevuto con lo zucchero. Bene, grazie Cesare. Allora torniamo a Raffaele Spadafora e gli chiediamo la ricetta. Questa è la ricetta. Ma la ricetta della bibita al caffè è una ricetta abbastanza semplice: acqua, zucchero, caffè tostato secondo le migliori tradizioni del sud, e soprattutto diciamo l'acqua è importantissima sia per la gazzosa sia per il caffè stesso. Quindi io, dottore, la inviterei a venire in Calabria e mediamente, secondo me, troverà un buon caffè da gustare, sia in bottiglietta la gazzosa al caffè, come appunto le dicevo, sia caldo o shakerato, come uno lo desidera. Questo è un invito, sicuramente, perché credo e ho visto che varie miscele fatte con le acque nostre di Calabria sono più buone rispetto a dove... Guardi che io la conosco bene il suo prodotto, quindi l'ho bevuto e così ne ho parlato quasi 10 anni fa, quindi lo conosco bene, conosco la tradizione appunto della gazzosa col caffè. Grazie a Raffaele Spadafora, che è caduto come il cacio nei maccheroni, si dice, con questo radioascoltatore calabrese. Bene, io ora voglio andare a Napoli, rimaniamo al sud. Napoli è considerata la grande città del caffè, molti dicono per la qualità d'acqua, ma ora sentiamolo a un professore, perché andiamo al bar del professore, da Raffaele Ferrieri. Buongiorno Ferrieri. Buongiorno dottore, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Senta, perché si chiama bar del professore? Allora, le spiego subito, io ho studiato musica per diversi anni, per cui mi chiamavano il professore e quindi ho capito. Questo locale è il momento in cui mi sono dedicato al caffè. Senta, quindi non è un professore per il caffè, insomma. Beh, dopo tanti anni di lavoro, dopo circa 15 anni intensamente per aver cercato di capire come proporre il caffè senza mai allontanarsi dal reto gusto del caffè in tante varianti, proprio le varianti, mi hanno dato anche questa professione. Io so che lei è molto, diciamo, è conosciuto per le varianti. Ci vuole raccontare qualche variante? Guardi, io ho incominciato piano piano a capire che potenza potesse avere lo zucchero nel caffè, perché ci vuole e non ci vuole, cioè il caffè va preso in tanti modi, e piano piano sono riuscito a creare circa 63-64 varietà di caffè. Ho abbinato il caffè a vari gusti, non so, a delle erbe come il mirtillo, come la rucola, come il basilico, insomma la liquirizia. Io, quando ho incominciato io, era impensabile, quantomeno a Napoli, che esistessero carte da caffè. Oggi tutte le aziende di grossa levatura producono il caffè e propongono tutte varianti in tanti modi, ma quando ho incominciato io le posso assicurare che c'ho tutta una documentazione. In Italia si parlava solo dell'espresso e basta, perché la gente era scettica, maggiormente a Napoli, che c'è il culto del caffè, della tazzina, e quindi un'impresa in porto. Le faccio una domanda di un radioascoltatore, Agostino. A Napoli l'acqua è più ricca di magnesio? Beh, questo sinceramente io lo escludo. Lo escludo perché le nuove normative europee impongono la depurazione vicino a tutte le macchine da caffè. Quindi nel momento in cui l'acqua viene depurata, bene, che succede? Succede che l'acqua ha gli stessi livelli in tutti i locali, in tutta Italia. Certo, perché senta, la depurazione porta via tutta una serie di cose. La variante che ha più successo di quelle che lei ha preparato, qual è? Allora, quello che ci ha portato a essere conosciuto in tutto il mondo è stato il caffè alla nocciola, e quello che ci hanno imitato maggiormente a Napoli da tutte le parti, perché noi lo facciamo con una crema nostra artigianata che prepariamo noi, non lo facciamo con i prodotti che usano in pasticceria, che abbinano nei dolci e la mettono pure nel caffè. La nostra crema di nocciola è l'unico prodotto che riesce a dissolversi nel caffè, mentre invece tutte le altre paste di nocciola galleggia, che usano, mantengono, non si sciolgono. Bene, allora, è una ricetta della mia nonna, per cui io l'ho tramandata ai miei figli e la siamo portata avanti. Un caro saluto al professore, grazie, da Napoli. Sentiamo Giulio. Bocca al lupo per la trasmissione. Grazie, crepi il lupo. Giulio da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Senta, sentendo la sua trasmissione mi sono ricordato di mio padre, ferroviere, che faceva il caffè freddo durante tutta l'estate, lo metteva in una bottiglietta, e mi ricordo che quando andavo a prenderlo e lo versavo nel bicchiere mi strillava, perché prima di metterlo nel bicchiere bisognava fare certi movimenti, una specie di shakeraggio a mano, per cui veniva la cremetta per poterci poi bere un ottimo caffè. Bene. E quindi questo mi ha... E un'altra cosa rispetto a quello che dice lei sulla professionalità, sul bere come un caffè, sono d'accordo. Mi ricordo da ragazzo il bar di fronte casa, che la macchina tutte le sere veniva pulita, ma io mi ricordo almeno un'ora, lavata, pulita, riposata, e poi la mattina si rimetteva in funzione. Credo che queste cose non si facciano più tanto, proprio per la professionalità, per la liberalizzazione, diciamo, tante cose, insomma. Grazie Giulio da Roma. Giulio da Roma per le sue osservazioni. Ora abbiamo con noi un bravissimo docente, Marcello Arcangeli, del direttore del Trading Center Lavazza, al quale faccio una domanda che è un po' il succo di quello che dicevo prima. Moltissime aziende, ormai quasi tutte quelle importanti nel mondo del caffè, hanno creato dei corsi, hanno creato delle università, hanno creato dei centri di formazione. Allora chiedo, Marcello, ma diciamo che tanti frequentano i vostri corsi, ma sono ancora pochi rispetto ai bar che ci sono in Italia? Per questo ancora si vedono così delle deformazioni, diciamo, dietro il banco? Sì, assolutamente sì, perché noi mediamente riusciamo ad addestrare 4-5 mila diciamo baristi all'anno, almeno in Italia, però poi c'è il problema del turnover nei vari locali, e quindi assolutamente in questo senso c'è ancora molto da fare, e Lavazza è impegnata costantemente in questa attività di formazione, tanto che è stata la prima ad aprire questo centro 22 anni fa, e poi dopodiché il network si è diffuso in tutto il mondo fino ad avere oggi 50 scuole in tutto il mondo. Quindi questo sicuramente nella direzione proprio dell'educational e di aumentare la professionalità, perché come si diceva prima questa è una professione, altrimenti la qualità dell'espresso decade proprio nel momento finale, cioè nell'ultimo anello qualitativo, cioè nella preparazione finale al bar. Ecco, mi risulta che le scuole che anche voi come altri avete all'estero siano piene di gente che vuole imparare, addirittura molti pagano anche per poter imparare a fare il caffè espresso. Certo, nel nostro caso, essendo un'attività legata ad un'azienda privata come Lavazza, l'attività di formazione è assolutamente gratuita, quindi per noi la formazione ha un costo, però viene comunque rivolta a clienti o potenziali clienti, quindi assolutamente gratuita. Ecco, senti, oltre all'espresso, diciamo nei vostri centri di formazione si insegna anche il caffè shakerato, il caffè freddo, tutte le derivazioni, diciamo, oggi che sono molto, molto in voga sul caffè. Sì, assolutamente sì, perché noi abbiamo proprio all'interno dei nostri moduli di formazione la caffetteria classica, però poi c'è tutta la parte di preparazione legata ai ricettati, quindi caffè aromatizzati piuttosto che ricette a base di caffè, tra cui, soprattutto in questo periodo, caffè shakerati o caffè freddi. E a tal proposito, volevo fare il punto rispetto a quello che si diceva prima, no? Sul caffè shakerato. Bisogna distinguere fra il classico, lo shakerato fatto con lo shaker, e quello che molti fanno con il frullino. Sì, certo. Perché poi alla fine è sempre caffè shakerato, ma abbiamo due prodotti completamente diversi. Mentre altra cosa, e ne sentivo parlare prima con alcune perplessità e lacune, il classico caffè freddo all'italiana, cioè quello del bottiglione, dove non sappiamo come è stato fatto, certo, quando, con quale caffè. E a tal proposito noi quest'anno abbiamo lanciato un nuovo prodotto, abbiamo lavorato proprio in quest'ottica, facendo a nostro avviso una grande innovazione. Quindi abbiamo sviluppato, perché il mio centro si occupa di formazione ma anche di sviluppo di nuovi prodotti e utensili legati al mondo del caffè, abbiamo sviluppato e brevettato il coffee cooler, cioè per preparare il classico caffè freddo all'italiana davanti al cliente, quindi freschissimo, e in 30 secondi noi raffreddiamo il caffè che esce dalla macchina espresso a 78-80 gradi, lo portiamo a 4 gradi. Bene, grazie Marcello, Marcello Arcangeli. Sentiamo Gaia da Milano. Buongiorno Gaia. Buongiorno, sì, io chiamo perché lavoro alla Bialetti e volevo quindi portare la nostra testimonianza, perché ho sentito prima parlavate dei diversi gusti di caffè che si bevono nelle città d'Italia. Bialetti appunto dalla storica moca, quindi sempre studiato il modo di estrarre il meglio del caffè, e ci siamo accorti in passato che già gli italiani identificavano Bialetti come produttore di caffè. Abbiamo quindi deciso di sviluppare delle miscele studiando proprio le abitudini degli italiani nelle diverse aree geografiche d'Italia, e ci siamo accorti che a seconda delle abitudini e delle origini storiche delle diverse città il caffè proveniva da diverse aree, o dall'America del Sud piuttosto che dall'Oriente, e quindi queste miscele che ha sviluppato Bialetti corrispondono proprio a queste abitudine. Lei prima parlava di Trieste, ecco che per esempio noi abbiamo una miscela che si chiama Venezia, proprio perché la miscela che proveniva dall'Oriente aveva questi aromi, questi retrogusti. Grazie Gaia. Ora abbiamo con noi quello che è stato il campione italiano 2010-2011, Franco Sanapo. Buongiorno. Buongiorno Francesco. Buongiorno Francesco, scusi, Francesco del Caffè Corsini di Arezzo. Allora, esatto. volevo chiederle innanzitutto, caffè shakerato, mixer o shaker? Allora, in teoria la maniera perfetta per farlo sarebbe utilizzare tutti e due gli strumenti, ovvero preparare due espressi, uno versarlo nello shaker colmo di ghiaccio, l'altro nel mixer, e shakerare il primo caffè versato nello shaker solo per 8 secondi, il tempo che si fredda, quindi non diluirlo con acqua come a volte succede, e nel mixer creare quel piccolo strato di crema da versare poi nello shakerato. Questa sarebbe la perfetta forma. Ecco, volevo chiederle, visto che le ho chiesto diciamo la ricetta, le chiedo anche la ricetta, caffè freddo, questo misterioso bottiglione che emerge dal frigorifero dei bar. Assolutamente, da vietare. Esistono varie tecniche ora per un'estrazione anche a freddo del caffè, si chiama cold drip, viene dal Giappone, addirittura io l'ho usato quest'anno alla mia performance al mondiale di Bogotà, ed è una tecnica per estrarre il caffè a freddo, un'estrazione che dura logicamente molto più tempo, circa 12 ore, però ha un profilo gustativo molto dolce, piacevole, con un buon corpo, quindi quei bottiglioni che si tirano fuori dal frigo sono il male del caffè. Bene, bene. Sentiamo Alberto dalla provincia di Bergamo, un radioascoltatore. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Mi dica. Nel 92 sono stato in Jugoslavia, a Zagabria, e la sera sono andato in un bar e ho chiesto di bere un caffè. In questo bar c'era anche le cimbale, quelle macchine per fare l'espresso, e il cameriere mi ha chiesto, parlava un italiano discreto, amaro o dolce? E dico, vabbè, dolce. E non ha fatto altro che mettere due cucchiaini di zucchero nel filtro dove avevo messo il caffè, e mi ha fatto il caffè così, con caffè e zucchero assieme. Speriamo che dal 92 in poi abbia imparato. Grazie Alberto. Ora andiamo a Cremona, andiamo al Bar Negresco, che è un noto bar per appunto il caffè shakerato, da Yolanda Carletti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei come lo fa? Buongiorno. Sentiamo come fa lo shakerato. Io assolutamente ed esclusivamente con lo shaker. Ah, ecco. E anche perché in questo modo si riescono a soddisfare tutte le richieste dei clienti, chi lo vuole più dolce, meno dolce, con delle correzioni, oppure anche senza zucchero, in modo tale appunto da accontentare tutti i clienti. Quindi con lo shaker, quindi ogni volta la vediamo sbattere insomma con forza sullo shaker. Assolutamente sì, anche perché comunque anche con lo shaker si riesce a formare la crema compatta che rimane in superficie, e anche all'occhio insomma vuole la sua parte, certo. E l'occhio appaga. Sentiamo Carlo dalla provincia di Chieti, è un radioascoltatore. Buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno dottor Paolini. Veloce perché ho 30 secondi, prego. No, volevo dire soltanto, tornando sull'argomento della qualità del caffè al bar, che dipende, incolpare solo i baristi non è sufficiente, è la capacità che abbiamo noi che andiamo a prendere il caffè di assaggiarlo, di gustarlo e quindi di scegliere. Certo. Se chiediamo un caffè migliore, ovviamente loro si organizzeranno. E allora bisognerebbe fare qualcosa di più per sensibilizzare, per riapprendere come gustare un buon caffè. Sanapo, lei è d'accordo con questo radioascoltatore? Guarda, sono pienamente d'accordo, solo l'unica cosa che vorrei aggiungere è quello che i baristi italiani devono studiare di più, perché purtroppo, anche essendo un prodotto parecchio conosciuto, purtroppo devo dire che non è per niente studiato, come i nostri colleghi all'estero. Io spesso e volentieri mi trovo all'estero per lavoro, anche nei paesi produttori, è vero che c'è uno studio maniacale di quello che è il lavoro del barista. Il lavoro del barista è visto con, diciamo, con più stile. Ecco, sentiamo proprio Rietta da Roma, una radioascoltatrice. Prego Rietta. Allora, io volevo, buongiorno prima di tutto, volevo dire che un ottimo caffè freddo, con l'aroma del caffè freddo, si fa prendendo una tazzina fredda, mettendoci un cubetto di ghiaccio e facendoci colare sopra un buon caffè caldo. Bene. E questo è un ottimo caffè. Un'altra cosa che voglio dire, vista la mia esperienza di 11 anni dietro un banco, che oggi a Roma è difficilissimo prendere un buon caffè per una grande trascuratezza dei baristi. Bene, grazie, la ringrazio di questa osservazione che rientra su quelle cose che ho detto io all'inizio, che sono contrastate perché non tutti ovviamente la pensano in questa maniera. Però devo, prima di chiudere, devo un sms. Io sono piemontese e il caffè del professore di Napoli è il migliore del mondo. Bene, visto il professore, diamogli questa soddisfazione. Grazie a Francesco Sanapo per queste considerazioni finali. Io niente, abbiamo finito, magari tutti ora andiamo a prendere un caffè. Credo sia venuta voglia di caffè. Ci sono tantissimi sms, molti che sono molto critici sui caffè sulle autostrade, altri che sono critici su molte città, quindi non è che posso leggere tutto, anzi ce ne sono alcuni anche molto molto violenti che io ho cercato di attenuare. E ora non mi resta che augurarvi una buona settimana, che cominci con un caffè caldo e magari finisca alla sera con un caffè freddo o shakerato. Buona settimana dal gastronauta.